Antonio, ben trovato. Ben cercato, mai cercato, sì, T'ho mai trovato. cercato e t'ho pure trovato. Grazie, grazie a voi. Allora, raccontiamo a chi ci ascolta brevemente che storia è questa di Milano via Padova. È un film girato da noi grazie all'ausilio della Fondazione Bertini, che è una fondazione di Milano che si occupa di problemi di disagio mentale, con la quale avevamo già collaborato 2 anni prima per Fuori Dove, un documento che abbiamo girato sulla follia, diciamo. E è stato girato nel 2011 durante le elezioni per il ballottaggio del sindaco di Milano e in via Padova, questa via che è la via più alta commistione tra persone, diciamo, tra milanesi o soprattutto persone del sud Italia che poi sono andate a abitare lì e chiamiamoli stranieri, insomma, persone che non sono italiane. Quindi era una via che sembrava una polveriera, invece dal documento che abbiamo girato noi è una via con sue criticità, d'accordo, ma una via bellissima dove possono tranquillamente convivere usi diversi, modi di intendere la vita completamente diversi. Insomma, la terra dove viviamo non possiamo ritenerla nostra solo perché ci siamo, perché noi ci siamo per sbaglio, nessuno vive in un posto, nasce in un posto per sua volontà. Ecco perché la tolleranza, che già è un termine orribile perché significa che c'è un fastidio, non dovrebbe essere mai messa in discussione. Cioè, chiunque nasce, nasce dove non ha deciso, quindi non può nemmeno decidere che altri non vengano dove sta lui. Come era nato tutto l'idea di fare questo film e di farlo lì proprio? Un'induzione. La Fondazione Bertini ci disse c'è questa festa via Padova, è meglio in Milano a maggio, in 2 giorni di maggio, è una festa dove la via scopre i suoi punti di forza e tutte le sue debolezze. E quindi è uscito un documento che parla del razzismo, anche se il razzismo, come diciamo noi, non esiste, esiste solo la stupidità, la deficienza della gente, perché giudicare una persona inferiore, diversa da te solo per il colore della pelle, non significa essere razzisti, altrimenti noi conferiamo ideologia alla stupidità, significa essere deficienti. Solo che fa meno notizia questo, perché un telegiornale non si può aprire con una notizia episodio di deficienza in pieno centro. Quindi si dice episodio di razzismo e si conferisce ideologia alla demenza, perché non puoi pensare che una persona è diversa da te solo per il colore della pelle di altri. Cioè, così, cioè, allora chi è intelligente dovrebbe essere razzista nei confronti. Come avete pensato di procedere una volta stabilito quello che volevate fare? Che altro ci siamo lasciati condurre da questo vortice, la via è veramente una via trascinante. Adesso ci hanno detto che sta cambiando questa via, perché dal 2011 è diventata adesso una via dove fanno le speculazioni edilizie, dove probabilmente le case che prima nessuno voleva vengono comprate, sono state comprate a prezzo basso tra il 2011 e il 2015, adesso stanno vendendo queste case dalle ultime notizie che ci arrivano a prezzi altissimi. È una via dove che è cambiata in pochissimi anni. È stata usata come specchietto venne all'opera ogni volta che c'era un problema, ogni volta che c'era un'elezione da fare o un qualche cosa da eleggere, veniva tirata in ballo via Padova come via insicura, come via appunto che doveva essere presa non a modello, ma doveva essere appunto ripulita o resa migliore dall'amministrazione che avrebbe vinto. Quindi è nato involontariamente questo documento. Noi non siamo stati mai via Padova, siamo stati solo nei 2 giorni in cui abbiamo girato, non abbiamo voluto fare sopralluoghi e non ci siamo più tornati, perché vogliamo stupirci di quello che troviamo, vogliamo arrivare preparati nei posti. Ecco, proprio in questo senso, cosa ti ha impressionato maggiormente? La ricchezza di una via che presenta, come dicevo prima, tutti i colori sono, essendo tutte persone che provengono da mondi diversi, ci sono colori che in altre vie non si vedono, il colore, il calore anche e soprattutto l'intolleranza da parte di chi ha subito questa violenza dell'essere ritenuto diverso, ecco, questa è la cosa che più ci ha colpito, soprattutto le persone del sud erano molto violente, anche quelle del nord, ci mancherebbe. Noi abbiamo montato poi soltanto le risposte più malvagie, perché della bontà non ce ne facciamo niente. La rappresentazione della bontà nell'arte è la più grande menzogna che possa esistere. Noi abbiamo montato solo le risposte degli intolleranti, perché la malvagità crea ritmo, fa più ritmo. A noi interessava la musicalità, non è che un documento che rappresenta un impegno sociale, un impegno civile. Noi non saremo mai così pezzenti da volerci ripulire la facciata attraverso i mali degli altri, ecco. Dove ha circolato, immagino anche alla vostra presenza, avete accompagnato questo film, giusto? Questo film è stato montato e poi è stato finalizzato ed è uscito al cinema, non proprio al cinema, è uscito anche nei cinema alla fine del 2016, inizio del 2017. Abbiamo deciso di distribuirlo da soli, chiaramente scontrandoci contro la distribuzione capestro che c'è in Italia, dove sono tre le società che gestiscono i cinema e se non passi per loro non viene distribuito. E quindi noi abbiamo deciso invece di distribuirlo e ha girato molto il film. Adesso siamo contenti di questo rapporto col Cinema Aquila perché stanno chiudendo anche le porte di cinema che collaborano con le distribuzioni ufficiali. Ma giustamente se trovano due autori come noi che hanno un passato anche prestigioso, aprono, come dovrebbero farlo anche presso altri autori, aprono le loro porte all'indipendenza. E questo è molto importante perché noi abbiamo delle risposte di cinema illustri, di persone che passano per avanguardiste, che ci scrivono, non possiamo ospitarli, è inutile che faccio i nomi, perché sarebbe veramente una pubblicità inutile, non possiamo ospitarli perché non siamo liberi, abbiamo ricevuto risposte di questo tipo, da persone insospettabili e quindi questo per noi è un grave risarcimento, cioè sentirci dire da persone che sembrano poi persone libere e pulite e non siamo liberi, per noi è una grande vittoria. Ma è soprattutto una grande vittoria distribuirci un film da soli. Tra l'altro avete cominciato anche un bel rapporto con distribuzioni dal basso, OpenDDB, che ospiterà piano piano tutti i vostri lavori. Sì, è una cosa strana, di fuori. Non è che noi lo facciamo, non possiamo nemmeno essere ipocriti. Noi vorremmo essere distribuiti, però vorremmo essere distribuiti da un distributore che rispetti pienamente dell'estetica, quella che è la nostra natura, perché con noi non si può discutere il manifesto, non si può discutere il trailer, non si può discutere la veste grafica, vogliamo decidere tutto noi e se troviamo un distributore che ci lascia decidere a noi, noi ci facciamo anche distribuire, se non lo troviamo, se non siamo completamente liberi, e ci distribuiamo da soli. È un esperimento antropologico questa della distribuzione in assoluta indipendenza. Abbiamo anche polemizzato con attori e registi che difendono gli spazi occupati, che sono sacrosanti, dicendo come fate voi a difendere gli spazi occupati e a disinteressarvi delle menti libere. Perché non si può difendere uno spazio occupato e non difendere una mente libera, che poi gli spazi occupati li fanno le menti libere, così apparentemente. E quindi cercavamo anche una tutela maggiore, non per noi, perché noi abbiamo una. Ma voi non potete capire quanti autori di grandissimo livello non vengono distribuiti perché vogliono essere liberi. E questo è un problema che la cultura, non solo italiana, ma la cultura mondiale deve porsi, perché senza le idee dirompenti poi non succede nulla. Il film è oltremodo comico, ci tengo a dirlo, ma veramente fino alle lacrime. Poi questo mio modo di fare le interviste spesso fa pensare che noi rappresentiamo dei drammi, no, noi rappresentiamo una comicità perversa e inguaribile.